Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Milano, uomo picchiato in centro, era andato a recuperare crediti. Mi chiamano Spaccaginocchia, non ne vado fiero. Per uno che sognava il titolo mondiale, il recupero crediti non è esattamente un onore. Ma la box è uno sport duro e oggi le occasioni sono poche, soprattutto se una troppa passione e poco talento. I pugni più dolorosi sono quelli che ti dà la vita, e spezzare le gambe a un vecchietto con un mazzuolo perché è in ritardo con i pagamenti fa male davvero. Ma devo vivere anch'io e prima o poi, se l'impresario è contento, un incontro buono me lo trova. E allora, ma sino a quel momento, giù botta chi non paga, una notte dopo l'altra. Per il lavoro di oggi mi hanno dato un compagno, Tommaso, Tommy nel giro, grande, grosso, poca tecnica e tanta cattiveria. Vive in un monolocale di Bruzzano con un sacco appeso al soffitto. Quando finisce la palestra o il lavoro, spara tutto orgoglioso. Adesso vado dalla mia donna e ci dico, inginocchiati e prega. Lo fa sempre ridere quella frase. La sua vita è così, e siccome a pestare i creditori morosi è più bravo e più freddo di me, è lui il capo. Non è un lavoro facile. Un tizio ha fatto fortuna e si è messo in testa di non pagare. Gira con il SUV blindato e i bodyguard. Sta in un palazzone di Corso Venezia, cancello elettronico con fotocellula. Sta lì il trucco. Lo dobbiamo beccare mentre si sente sicuro e uscire prima che si blocchi il cancello. Neanche gli dobbiamo chiedere i soldi, dice Tommy. Una lezione esemplare. Ha già un piano. Lui che è la mente del colpo. Il SUV sguscia attraverso il cancello elettrificato. Noi gli siamo dietro, di corsa dal nostro punto di appostamento, cattivi e pieni di rabbia. Chewing gum sulla fotocellula. È un'ora che mastichiamo. L'impasto dovrebbe tenere. Eccolo lì il dottore che esce. Si volta e ci guarda per niente spaventato. Ci aspettava. Di pagare proprio non ha intenzione. Vuole mandarlo lui il messaggio. Lui e i suoi scagnozzi coi bastoni telescopici in fibra di carbonio. Tommy si becca una pioggia di fendenti e da duro che è rotola a terra gemente. Meglio telare, altro che piano. Giusto. La cicca non ha tenuto. Il cancello si chiude con uno schianto. Tra me e la salvezza c'è un muro di 3 metri, edera e metallo. Nessuno si accorgerà di niente, neanche una riga in cronaca, ma nell'ambiente si saprà. Sono solo e loro in 3 coi bastoni. Questa volta le ginocchia le spaccano a me. Stefano Di Marino, in libreria con Il Professionista, edito da Mondadori, 331 pagine, 4,50 €. Per riascoltare e scaricare tutte le storiacce del sabato e della domenica, www.radio24.it, alla voce podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog. Ciao a tutti, al prossimo weekend!